24 di Giovanni Minoli. L'asta dei diritti TV della Serie A relativa al triennio 2018-2021 è stata annullata. Soltanto Sky e Perform hanno presentato offerte. Cidade Mediaset ha annunciato di aver deciso di non presentare alcuna offerta all'asta, definendo inaccettabile il bando perché abbatte ogni reale concorrenza e penalizza gran parte dei tifosi italiani. La scusa del pallone, chissà. Le offerte non rappresentano il valore reale del calcio italiano. L'assemblea ha deciso di non assegnare a nessuno dei concorrenti il bando che è stato pubblicato. Ora si procederà con un nuovo bando il cui valore di partenza sarà uguale a quello già indicato in precedenza, ossia 1 miliardo di euro. Non era mai successo che un'asta sui diritti televisivi andasse così deserta, che il valore del campionato di calcio fosse così svalutato. Se ne riparlerà a settembre. In Italia del resto le TV non possono fare a meno del calcio, ma la verità è che soprattutto il calcio non può fare a meno delle TV. Buongiorno, bentornati a Mix 24. Dunque, la Lega Calcio ha annullato l'asta indetta per assegnare i diritti TV per le partite di Serie A per il triennio 2018-2021 perché le offerte ricevute sono state giudicate insufficienti. Insomma, è l'inizio di una rivoluzione? È possibile, soprattutto di un cambio radicale del rapporto fra la TV e il calcio? Forse. Ne parliamo con i diretti protagonisti. Buongiorno Marco Fassone, amministratore delegato del Milan. Mediaset e Team non hanno fatto nessuna offerta per i diritti delle partite. Sky ha lanciato una cifra di 440 milioni di euro. I presidenti delle squadre di calcio dicono che il pacchetto vale 1 miliardo. Siete rimasti sorpresi da questa strategia? Intanto buongiorno Fassone. Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Sorpresi parzialmente, perché nell'ultima assemblea nella quale avevamo approvato il bando c'era stato molto dibattito all'interno dell'assemblea sul momento e quindi sull'opportunità. Quindi si prevedeva insomma una difficoltà. Forse non tutti la prevedevano, ma che ci fosse qualche incognita dietro questo bando non è stato così sorprendente. Ecco, ma possiamo spiegare ai nostri ascoltatori con due parole semplici in base a quali parametri vengono calcolati i valori dei pacchetti di squadre e partite? Sì, è una vendita e come tutte le vendite ci sono diversi parametri, non ci sono algoritmi matematici, c'è il mercato e quindi noi vediamo da una vendita collettiva che è partita nel 2010 e ormai abbiamo 7 anni alle spalle di valori che si sono ormai consolidati. Certo. Ci sono delle audience televisive che ci dicono qual è in questo momento la passione dei tifosi italiani, sì. Ci sono dei numeri di abbonati di Sky e di Mediaset che a loro volta si sono consolidati nel tempo e quindi il mix di tutte l'incrocio cose... di questi parametri dà il valore. Esatto. Ecco Fassone, le televisioni dicono che le richieste dei presidenti sono fuori mercato, cioè quel miliardo che chiedete. Lei pensa che sia possibile trovare una mediazione oppure si va a uno scontro? Allora, io non credo che ci sia proprio la logica dello scontro con le televisioni. Le televisioni hanno bisogno del calcio, il calcio ha bisogno delle televisioni. Credo chi ha che bisogno l'approccio... di più dell'altro? Io continuo a pensare che il calcio rimanga, come diciamo noi in gergo, una killer application, sì. Cioè che le televisioni a pagamento, nel caso specifico naturalmente, Sky e Mediaset Premium, hanno senza bisogno calcio, delle killer. In grande difficoltà, sì. Ma questo non deve metterci in una posizione, sì, di superiorità, dobbiamo comunque essere attenti a posizionarci al prezzo giusto e con i pacchetti. E quindi il presidente della Lega, Tavecchio, ha detto che verrà preparato un altro bando. Con quali linee guida? Può anticipare un pochino quelle che possono essere linee guida? Immagino che hanno sullo sfondo il miliardo di cui avete parlato. Sì, non le voglia, ma siccome c'è dibattito all'interno delle 20 società di Serie A, non è esattamente fissa quale sarà l'output. Il valore di mercato che noi riteniamo corretto per il mercato domestico continua a essere questo. Abbiamo compreso che questa metodologia utilizzata questa volta, in questo momento storico, non è vincente. vincente, quindi dovremmo andare per adattamenti progressivi di questa metodologia, sì, e soprattutto non dimenticarci l'opportunità di avere sullo sfondo anche un nostro canale che possa essere utilizzato, ecco, in caso, ecco, le cose a proposito di questo, Fassone, i presidenti appunto della società di calcio ipotizzano, fanno l'ipotesi di fondare un loro canale televisivo. È una possibilità reale o è uno strumento di pressione sulla trattativa? No, io la vedo come una possibilità reale, lo dovrebbe essere, ne discutemmo già in occasione dei bandi passati, poi siamo un po' tutti narcotizzati in Serie A dal fatto che il tanto vituperato accordo con Infront garantisce comunque alla Lega di Serie A un reddito minimo di 1 miliardo all'anno, certo, e quindi quando si tratta di affrontare delle sfide di tipo imprenditoriale come questa... Se uno dice, intanto accontentiamoci di sto miliardo. Esatto, ma in realtà deve diventare una possibilità. Possibilità, ma su che basi potrebbe fondarsi? Cioè i ricavi arriverebbero da raccolta pubblicitaria, come verrebbe organizzata? Avete approfondito il business plan dell'ipotesi del canale oppure siamo solo alle dichiarazioni di intenzioni? Io credo che alcune società che magari sono un po' più dentro la materia abbiano fatto delle analisi un po' più approfondite, il Milan è tra queste società, non ne abbiamo ancora dibattuto in modo ampio in commissione, però il modello non può essere soltanto quello che si basa sulla raccolta pubblicitaria, che è un modello obsoleto. Sappiamo che oramai tutti i tifosi italiani hanno avuto la disponibilità a pagare una cifra più o meno alta a seconda, certo, del broadcaster per vedere le partite, da quella si deve partire, quindi sarà un modello misto che si basa sulla sottoscrizione dei tifosi e contemporaneamente sulla pubblicità. Senta, ma le televisioni commerciali pensano di essere gli unici player sul mercato, ma però è così davvero? In Italia è ancora per il momento in parte così, in gran parte così, lo abbiamo visto anche da questa asta, però i player nuovi stanno arrivando. Ci sono, cioè i diritti potrebbero essere anche venduti a soggetti come i titani di internet, Google, Facebook, oppure no? Abbiamo registrato in Italia per la prima volta la loro curiosità, si sono informati, hanno chiesto le copie dei bandi, hanno fatto diverse richieste nei confronti del nostro advisor che è Infront. Le offerte per il momento da loro ancora non ci sono, ma si intuisce che a livello embrionale questa tipologia di player arriverà anche in Italia, è già una realtà da altre parti, arriverà anche da noi. Anche in Italia, ecco, ma la Pay TV l'abbiamo già un po' detto, senza il calcio nel suo bouquet sta poco in piedi. Fa fatica, lo sappiamo, i numeri sono quelli, ne parliamo spesso e volentieri con i nostri amici sia di Sky che di Mediaset, è vero che loro hanno un modello che si basa anche sul cinema. Lo so, ma è molto meno killer application il cinema del calcio. La Serie A è la Serie A, specialmente nel nostro paese. E chi è più forte in questa trattativa? Insomma, lì è un braccio di ferro, diciamo. Ma io non lo vedo tanto come un braccio di ferro, io credo che abbiamo interesse fatto un errore, comune. Bisogna fare autocritica, al momento non era giusto, uno dei due player che è importantissimo come Mediaset sta vivendo un suo momento interno delicato, certo, di presa di decisioni, è un momento particolare, adesso noi dobbiamo concentrarci sull'estero che è veramente il mercato sul quale siamo anche perché grandi. lì non, come dire, le vendite sono scarse. Esatto, il rapporto che abbiamo lo sappiamo. Col mercato per esempio spagnolo... Noi abbiamo l'85% dei ricavi che arriva dall'Italia, il 15% che arriva dall'estero, troppo, con tante proprietà internazionali. Concentriamoci sull'estero, sviluppiamolo bene, diamo tempo agli italiani di assestarsi e tra un paio di mesi, quando la situazione sarà più chiara, credo che potremo proporci con una modalità più appetibile per tutti. Senta Fassone, ma lo spezzettamento del campionato in tanti appuntamenti ha fatto bene o male al calcio? Era un passaggio obbligato, nel senso che... Ma non è un po' troppo? Il tennis, per esempio... Ha pagato questa moltiplicazione di appuntamenti, cioè l'unicità poi anche degli incontri. No, noi l'abbiamo pagata dal punto di vista degli spettatori medi allo stadio, sì, in particolare in funzione di certi orari serali, certo, la domenica o durante la settimana, che sono molto difficili. Gli stadi allora, sono sempre più vuoti. Gli stadi sono quasi sempre più vuoti, alcune squadre tengono meglio di altre squadre, ma certamente... E poi sono malfatti per il mondo moderno, diciamo. È un passaggio, allora se pensiamo che la Spagna, per esempio, che è comunque un campionato a cui ogni tanto guardiamo, ha addirittura 10 finestre diverse, noi appunto non siamo ancora a questo livello, ma il modello opposto, che è l'Inghilterra, è quello che addirittura non mette tutte le partite in televisione. Noi secondo me nel momento in cui diventiamo un prodotto più appetibile anche per il mercato estero, si può anche non metterle tutte, lo diceva Cairo l'altro giorno in un'intervista. vista, forse qualche partita non metterla in televisione per costringere la gente ad andare allo stadio può essere un altro pezzetto di strada. È un cane che si morda la coda. Noi abbiamo spostato la gente a guardare le partite in televisione anche perché abbiamo degli stadi che non sono moderni, come dicevamo prima, appunto l'Inghilterra ha degli stadi dove è veramente un piacere andare, la solita retorica delle bambini. E alla fine loro hanno circa il 50% domesticamente delle partite in televisione. Noi ci dovremmo progressivamente arrivare, ma dobbiamo darci una svegliata sul piano degli stadi. Insomma, per portare la gente c'è bisogno di stadi belli, confortevoli e moderni. Senta Fassone, ma ce la fate a tenervi Donnarumma? io lo spero di cuore. Lo spero di cuore. È un ragazzo fortissimo. Mi sembra una trattativa tosta con Raiola. Sì. Corteggiare Donnarumma è come corteggiare una donna bellissima, ma in questo caso c'è qualcun altro di mezzo che sa fare bene il suo mestiere. Io spero che tutto finisca bene per il Milan. Va bene, auguri per il nuovo Milan. Grazie, Fassone. 800 24 00 24 per gli sms 349 238 6666. Ecco, ti convince la mossa degli operatori televisivi, Mario? No, non la trovo lungimirante. Per un semplice motivo, che Fassone ha appena dato una notizia durante l'intervista, cioè che gli operatori, gli over the top, quindi i grandi di internet, hanno cominciato a interessarsi dei... Sì, insomma, l'ha detto un po' vago. Sì. Però comunque, no. Hanno chiesto comunque, i bandi. Il prossimo passo è che pagano e vincono. Senti, Pietrangelo, per te? Vorrei fare proprio un paragone. Gli stadi che si svuotano sono simili alle librerie che si svuotano, ai teatri che si svuotano, alle edicole che si svuotano, nel senso che il calcio, che è così tanto amato, adesso è entrato nella sensibilità, diciamo, del pubblico, nell'ipotesi di averlo gratis. E quindi significa che quella stessa sorte che è toccata, diciamo, all'editoria, adesso va a intaccare quello che era uno dei solidi fondamenti. Ma gratis della... mica tanto, perché ti devi abbonare alla Pay per vederlo. Provo a spiegarmi. Nel senso, anche l'ipotesi, che cosa ha detto Fassone? Dice: concentriamoci sull'estero. Sì. In un certo senso sa che sull'estero c'ha un mercato molto più ampio. Certo, il fatto stesso che Mediaset non si è presentata all'asta è la controprova che ci sono dei gran casini dentro Mediaset. Al telefono abbiamo Umberto Gandini, un altro grande amministratore delegato dell'Associazione Sportiva Roma, una delle figure dirigenziali più importanti e vincenti del calcio. Gandini, buongiorno. Lei è un decano del calcio, ha trascorso 23 anni al Milan, ha visto l'evoluzione di questo sport, anzi lo avete anche in gran parte determinato lavorando con Berlusconi, con Galliani, due figure che, possiamo dirlo, hanno cambiato il calcio italiano. Che cosa è successo in questa trattativa dei diritti televisivi che l'ha sorpresa? Sicuramente mi ha sorpreso la comunicazione da parte dei vari broadcaster sulla loro volontà di partecipare o meno. Francamente certe uscite pubbliche di non presentare offerte avute sia da Mediaset in una maniera abbastanza colorita che da parte di Telecom sono sicuramente stati due aspetti che hanno un po' spostato. Ma l'inizio di un braccio di ferro, secondo lei, Gandini? Ma io credo, come diceva prima parlando con Fassone, è sicuramente un momento molto particolare per il mercato domestico, perché non è un mistero quello che ha detto lei su Mediaset, la situazione con Vivendi, il ruolo di Vivendi in Telecom, il fatto che comunque in Italia non sia ancora partita quella corsa ai contenuti degli operatori della telecomunicazione, che invece hanno fatto la fortuna del calcio soprattutto in Inghilterra, perché è British Telecom che ha praticamente spaiato il tavolo contro Sky. La stessa cosa è successa in Francia con i diritti della Champions. Qui siamo ancora alla lotta fra piattaforme, sui contenuti. E oltretutto su due piattaforme che fanno concorrenza sostanzialmente sul prezzo. Quindi quello che noi al pubblico, all'utente finale, quello che noi abbiamo visto infatti è che, essendo assolutamente una killer application, vitale sia per Sky che per Mediaset, sul satellitare o sul digitale terrestre, il calcio ha portato comunque a farsi una guerra fra queste due piattaforme sul valore, sul prezzo. Indubbiamente il fatto di vedere Sky che si è presentata con un'offerta al ribasso rispetto ai valori del campionato del triennio in corso è stata... E voi della Roma come l'avete interpretata? Ma no, noi eravamo perplessi sulle tempistiche, quando Marco Fassone ha parlato appunto di dibattito in Lega. Noi non avevamo condiviso insieme ad altri questa accelerata, anche perché noi avevamo portato avanti una conversazione con le autorità, in particolare con l'antitrust, sulla quale noi contavamo di poter portare un'offerta per prodotto e non per piattaforma. I consigli dell'antitrust ci hanno portato a questa offerta mista, ci hanno portato a creare un pacchetto di esclusiva, quel famoso pacchetto D, che è quello che sostanzialmente ha avuto il principale fallimento, perché certo, è quello che dove Sky ha fatto un'offerta al 50%. Ecco, ma chi ha fatto questa accelerata? All'interno del gruppo la conseguenza delle approvazioni delle linee guida da parte delle authority, al dibattito con il nostro advisor, con il nostro consulente e l'assemblea di Lega, e quindi è stato un discorso che è stato comunque ponderato ed è passato, e quindi è stata scelta questa strada per cercare di anticipare sul mercato l'asta della Champions League che si è chiusa, cioè ieri, arrivare prima sì, col campionato e poi la Champions, pensando che legittimamente ci sarebbe stata maggiore competizione, mentre invece noi siamo stati forse un po' vittime di strategie già fatte da altre parti che hanno portato chi a non partecipare, abbiamo detto prima, e chi a partecipare in una posizione sostanzialmente di attesa, perché ovviamente non possiamo pensare, come nessuno pensa, che il valore del calcio italiano sia quello, ecco, perché da questa trattativa. Ecco, il calcio resta una killer application e non è uno sport in declino dal punto di vista del prodotto. No, beh, sicuramente abbiamo tanti problemi a livello di prodotto. Anche però, se le faccio una domanda, diceva Cairo l'altro giorno una cosa interessante. Un campionato però dove da 6 anni vince sempre la stessa squadra, in qualche modo perde appeal. Sì, questo può essere vero e non posso ovviamente... No, io sono juventino, sono contento, però no, diciamo dal punto di vista... conosco. Però indubbiamente il fatto di avere una squadra dominante porta un po' di disinteresse sul campionato, ma la realtà è che la squadra dominante è quella che ha quasi il 30% dei tifosi e quindi tutto sommato non va è bene così anche deleterio così per il mercato. No, ovviamente ci auguriamo che questo finisca ed è principalmente la responsabilità delle altre grandi italiane. Soprattutto voi, Roma e Milan, lui Donnarumma dice che se lo tiene, lei ci crede? Che ce la fa? È una partita a scacchi molto complessa, come ha detto Marco, io conosco benissimo i protagonisti, è sicuramente complessa, però è anche vero che Donnarumma ha talmente tanti anni di carriera davanti, sì, che penso può giocare almeno altre 3 squadre, sì. Esatto, diciamo che una fuga adesso sia forse un po'... Senta, ma mi dica una cosa, da Berlusconi e da Galliani che cosa ha imparato di sicuro e di irripetibile? È una domanda molto complessa. Diciamo che la risposta più celebre può essere che tutto quello che io so in questo mondo, sia nel mondo della televisione, perché ho cominciato lì nell'88 con entrambi, che nel calcio, lo devo a questi due personaggi. Perché loro hanno veramente scoperto, loro, che il calcio era una killer application. No, ma diciamo che noi abbiamo avuto la fortuna, quando dico noi io parlo del gruppo, certo, di essere esperti di televisione, di aver fatto quel mestiere, quel mercato, e arrivati nel calcio quando è partito l'avventura della televisione a pagamento e quindi le dirette TV, io mi ricordo allora ancora Telepiù, che poi è stata la prima trasmissione in televisione. Lei non il mondialito, come lei sa benissimo, certo, il mondialito ancora prima, ma come lei sa benissimo, il campionato italiano si vedeva qualche domenica alle 19 solo il secondo tempo. Senza sapere quale fosse. Ecco, ma quello ha sicuramente cambiato il mondo. Ecco, ma il fatto che ecco, dall'altra parte c'è questo, dicevamo prima con Fassone, questo svuotamento degli stadi, è anche quello però in qualche modo un problema, no? No, è assolutamente il problema, perché quando parlava prima di prodotto, evidentemente noi come prodotto calcio abbiamo tutta una serie di problemi, tra cui quella del palcoscenico dove si gioca, certo. Quindi assolutamente il discorso degli stadi è importantissimo, noi stiamo facendo un percorso che dovrebbe, spero proprio nella giornata odierna, avere una spinta ulteriore verso la definizione. Oggi dovrebbe esserci la votazione dell'assemblea cittadina, quindi è una cosa su cui contiamo. Cioè Roma deve decidere se questo stadio si fa o non si fa. Deve essere portata all'attenzione dei consiglieri comunali la delibera per la riproposizione del progetto stadio all'interno. Anche perché ho sentito, mi confermi o no, mi smentisca, che Pallotta, se non ci fosse lo stadio, se ne va. Beh, è sicuramente fondamentale per tutto il movimento, non soltanto per Pallotta, certo. Ma sicuramente la sua è stata anche una provocazione sui tempi. I tempi, nonostante la legge sugli stadi, sono ancora biblici, perché questo progetto è un progetto tremendo, che gira da 4 anni. Ecco, ma questo è sicuramente un problema. Senta, ma ritornando al problema di prima, non è che siamo di fronte in qualche modo a un tentativo di forzare la mano, sperando che la situazione di oligopolio logori la posizione dei presidenti della società di calcio? No, io credo di no. Io credo che ci sia stato molto di contingente. Assolutamente la situazione del mercato radiotelevisivo e delle comunicazioni in Italia ha avuto un suo importantissimo peso. E penso che sia corretto a questo punto riunirci, ragionare, riaffrontare il discorso e ripresentarci. Bisogna anche aspettare che si risolva il problema Vivendi, Telecom, Mediaset, insomma. Beh, sicuramente in qualche modo. Bisogna capire quale mestiere vuole fare l'operatore di telefonia, se vuole fare veramente il player delle telecomunicazioni o no. Come in Inghilterra. Senta. Perché poi, come ha detto Fassone, sicuramente ci sono dei player esteri, non peraltro Perform, che è una società esatto, lui ha fatto già un'offerta. Sì. E i grandi, come dicevamo prima, i grandi over the top, lei li vede all'orizzonte oppure no? Credo che prima dovranno sperimentarsi nei loro paesi d'origine, quindi sicuramente qualcosa succederà negli Stati Uniti. Lei sa già che l'NFL ha una trasmissione infatti, su Twitter, sì. E quindi qualche cosa lì è successo, però sicuramente Amazon, Netflix e Facebook sono i principali player. Non dimentichi che la famosa cerimonia dell'ultima partita di Francesco Totti è stata vista da più di 70 milioni di persone su Facebook. 70 milioni di persone su Facebook veramente fa impressione e fa riflettere anche. Assolutamente. Molto. Sì. Assolutamente. Ma sì. Di quanti miliardi è il giro d'affari del calcio dal punto di vista degli incassi pubblicitari? Ma gli incassi pubblicitari non sono granché se consideriamo il volume di attenzione. Se parliamo del calcio italiano, un'industria da più di 3 miliardi di fatturato, quindi è una delle più importanti del paese. Anche questo andrebbe sottolineato quanto il calcio è trainante per il sistema sia industriale da un certo punto di vista, ma anche per il sistema sportivo nazionale, perché tutto quello che viene generato dal calcio è comunque poi distribuito a pioggia sul calcio minore, sulla Serie B, sui dilettanti della Lega, quindi è un sistema. Vabbè, un movimento c'è anche, molto importante. Lì c'è anche una bella discussione su quanto riversare sul calcio minore. Sì, no? Però prima di arrivare a quello probabilmente dovremmo chiudere gli accordi e sapere quanto ne abbiamo disponibile. Certo, senta però Gandini, quello è un discorso che arriverà più avanti. Dopo, senta Gandini, ma la Roma, la squadra di cui lei oggi lavora, per la Roma cosa significherebbe il taglio ai diritti così nella linea nella quale per adesso siamo attestati? Ma io credo che ci sia un po' di disfattismo da questo punto di vista, perché come ha ricordato anche Fassone, noi abbiamo un accordo in essere con il nostro advisor che garantisce 1 miliardo di euro, quindi noi conteremo per il 18-21 su 1 miliardo di euro. Quindi qualora ragionate in quella. E anche questo incide anche sul modo di pensare il calciomercato? Beh, io non credo che cambi nulla questa stagione è ancora coperta da contratto in essere. Bisogna pensare al futuro. È vero che si assumono impegni pluriennali e quindi bisogna assolutamente avere lungimiranza. Però, come dicevamo, è molto presto per fasciarci la testa. Io sono convinto che il valore del calcio italiano verrà rispettato e, come è stato in crescita dappertutto in Europa, tornerà ad essere in crescita anche in Italia, perché il prodotto è assolutamente fondamentale. Senta, ma secondo lei l'accordo, insomma l'idea di fare un canale televisivo della Lega Calcio è un'idea, diciamo, che serve per condizionare la trattativa, oppure, come diceva Fassone, qualcuno ci pensa sul serio? Beh, penso che dobbiamo pensarci sul serio, perché evidentemente non possiamo rimanere schiavi delle piattaforme e degli operatori. Infatti, se continuasse questo impasse, indubbiamente andranno approfonditi, e so che verranno fatti a livello di Lega molto presto i business plan eccetera, e si farà una trasparente e sincera conversazione all'interno dell'assemblea per capire se siamo in grado di diventare editori del nostro prodotto. Certo, soprattutto nell'ipotesi che entrino in gioco anche i grandi player, che quindi le due piattaforme siano le piattaforme diventano di più, la tecnologia offre delle alternative a voi che siete produttori di contenuto. Assolutamente, noi siamo produttori di contenuto. Io mi ricordo una cosa di cui mi ha insegnato Gagliani che mi è venuto in mente adesso. Gagliani ha sempre ragionato sulla similitudine tra i diritti cinematografici e i diritti del infatti calcio. Lui diceva sempre, esatto, io produco dei film che fanno il 30% minuti di share, di 90 esatto, minuti che e quindi possono avere successo o non successo, dove c'è un regista, dove ci sono gli attori, esatto, dove ci sono le comparse, dove ci sono tante cose, e hanno uno sfruttamento che adesso ovviamente è cambiato, ma che allora era la diretta che poteva corrispondere, certo, alla sala cinematografica, esatto, poi il passaggio in pay, poi il passaggio in DVD o videocassette che dir si voglia, eccetera eccetera. Va bene. Ecco, noi abbiamo lo stesso destino, produciamo film e quindi lavoriamo sulle emozioni della gente. Senta, per produrre film qual è il prossimo artista top player che lei sicuramente regalerà ai suoi tifosi? Noi stiamo cominciando un percorso perché abbiamo. Sì, ma me ne dica uno sul quale non me lo dice. Assolutamente no. No, niente. Abbiamo un grandissimo direttore sportivo che è Monchi, che viene da Siviglia e che si sta muovendo. Va molto bene. Bene, stiamo muovendo molto. Chiederemo bene. Chiederemo a lui. Daremo soddisfazione. D'accordo, grazie, buon lavoro. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666. L'SMS, Mario, cioè, ti piacerebbe rivedere le partite del campionato sulla Rai? Sì, ma è un sogno. Sì, è impossibile. Un sogno. Eh? Peccato. E tu, Pietrangelo, non ti ha mai visto le partite. Voi vi prendete in giro perché sì, non ne capisco di calcio, sì, ma di similitudini sì. Allora fammene un'altra. E quando tu hai citato l'idea di Urbano Cairo di non mandare in onda le partite per fare andare la gente allo stadio, sì, mi ricorda tantissimo la fatica dell'editoria quando non vuole andare sull'online per salvaguardare la carta e la gente sulla carta non ci va più. E allora la similitudine è sempre quella dell'estero, come diceva Fassone, bisogna andare all'estero, e finirà come i direttori d'orchestra, come la grande musica, un prodotto italiano come il calcio che ormai la suonano soltanto i cinesi. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. State ascoltando un programma offerto da. Per gestire le risorse umane ci vuole experience. Scoprila su inaz.it. Mix 24. Allora Pietrangelo, prima di sentire la tua canzone voglio fare un ringraziamento collettivo, perché siamo sommersi da una quantità di messaggi di gente che ci ringrazia, anche i fedelissimi come Ulisse, dico noi ascoltatori Radio 24, non vogliamo che Mix 24 chiuda, purtroppo non lo decideva, anche noi non l'avremmo voluto, e Elena Marra che scrive una quantità di tweet industriale, penso, mi chiedo cosa fa nella vita, perché sempre a twittare, molto gentile, come faremo senza l'informazione, mi dite cosa posso fare, ma in base a quale criterio è stata decisa la chiusura? Questa è una bella domanda, perché è una domanda senza risposta. Musica. Ecco. Allora c'era un certo francese, oggi in metropolitana, abito chiaro, sguardo stropicciato, la stretta tutta di vigore, e accanto a lui una bellissima musa di chissà quali vertigini. Una musa a lui sconosciuta e però irresistibile. In un soffio le chiede: ci rivedremo? Certo, risponde lei, ci siamo visti una volta per sempre. E a tutti è sembrato di sentire uno schianto. Ha chiamato il Minotauro, ha voluto questo brano per Arianna, con un messaggio: ci riconosceremo in ogni dove. Ma che forte sto buttafuoco, 4 anni di poesia pura ci ha regalato, sì. Di letteratura, musica, letteratura, d'amore. Sì, ma come la zanzara, uguale. Vai con la tua bolla. So the sea is going to take me. Maybe not fairly far. Back home, tornare a casa, vabbè. Non è male questa versione, io ne conoscevo una migliore però, ragazzi, in regia. Sentiamola un po'. Allora, Giovanni, Regno Unito, Bruxelles, Europa, dopo il voto inglese si apre la grande partita della Brexit. Insomma, grande o piccola, poi vediamo. Mi ha colpito stamattina un'intervista di Michel Barnier sul Financial Times. Michel Barnier è il capo dei negoziatori dell'Unione Europea per la Brexit. Beh, che dice? Dice che l'Europa non ha tempo da perdere, che gli inglesi devono cominciare subito i colloqui, che serve un team stabile di negoziatori del governo inglese per andare avanti. È un'intervista ferma, con qualche piccola minaccia, ma questo fa parte, diciamo, delle regole del gioco diplomatico, bastone e carota, e in fondo però aperta al dialogo. Perché? Perché ricordatevi sempre che dovete, per capire che cosa fa l'Europa, bisogna guardare sempre Berlino. E se andiamo a vedere i conti dell'import-export, in particolare il risultato netto di questi due fattori, beh, scopriamo che anche la Germania avrebbe molto da perdere da una Brexit disordinata, per così dire. Perché se andiamo a vedere che cosa succede nel commercio tra Berlino e Londra, beh, scopriamo che Berlino ha 50 miliardi di euro di avanzo netto, diciamo così, e quindi ci vuole cautela, diciamo, anche nella valutazione di cosa fanno gli inglesi. Hanno sbagliato? Non lo sappiamo. Non si sa. Non si sa, il futuro non è ipotecabile. Esatto. Intanto volevo rassicurare Claudio da Torino, che dice: abbiamo protestato perché non è ancora chiuso Mix 24. Chiudiamo, stia tranquillo. Giovedì chiudiamo. Giovedì è la fine. Giovedì finiamo. Salamino! Mea culpa, maxima culpa, e non, caro Giovanni, non è tua colpa. Tu, ma come si fa? Perché non, e tu già hai capito? Chiudano. Non chiudano. Non chiude. Chi chiude? Vai, butta fuoco, continua. No, parlavo di colpa, quindi mi sono buttato fuoco. No, vai. Butta fuoco. Quattro anni che andiamo avanti con questa storia. Vai. Dai. Prego. Vai. Sigla. Mea culpa, maxima culpa, e non tua, Giovanni. Ma io mi chiedo, io mi domando e dico: come fai a capire le cose? Oh, non si chiederà mai di chiedere scusa per la previsione sbagliata. Saranno quattro anni, caro Giovanni, che si dà per politicamente spacciato chi? Silvio Berlusconi. E invece mente lui torna. Oh, pensateci, a momenti torna pure la casa delle libertà. Tempi gloriosi. Vedo in Mario percorrere il brivido dell'emozione. Ma ci pensate, tutti i bracci destri del cavaliere sono finiti tutti a mano manca. A sinistra si era accasato, ve lo ricordate? Nel mentre che si cuccava la casa di Monte Carlo, Gianfranco Fini. A sinistra è finito perfino Denis Verdini, regista del Patto del Nazareno. A sinistra del pubblico ministero invece c'è Emilio Fede, un tempo pestillifero delle sbaglianti sorti di Forza Italia. Ma al cavaliere, come al cavaliere nero, arride un solo destino. Sti tre fi sfidano il cavaliere nero. Ma il cavaliere nero da ammazza tutte e tre. Ma sti tre fi c'hanno tre fi per uno. Tutte e nove te sfidano il cavaliere nero. Ma il cavaliere nero da ammazza tutte e nove. Ma sti nove fi c'hanno tre fi per uno. Tutte 27 te sfidano il cavaliere nero. Ma il cavaliere nero da ammazza tutte 27. Mo sti 27 fici avevano tre fibre, dice basta, dimmi la morale. E che il cavaliere nero non gli è delica carca! Come il cavaliere? Queste parolacce non sono nostra prerogativa. C'era un bip quando una casa. C'era un bip così. Vabbè, dai. Morale. Con uno schioccar di dita, Berlusconi chiama raccolta tutti i suoi alleati e vince. Le amministrative infatti hanno certificato la resurrezione del centrodestra, perché sia chiaro, le ammucchiate centriste non funzionano. La stragrande maggioranza degli italiani non è di sinistra, molti di loro hanno votato per i 5 Stelle, tantissimi si sono astenuti, una gran parte è andata in soccorso al vincitore, ne ha beneficiato infatti finché ha potuto Matteo Renzi, e pochi sono rimasti di guardia al bidone di benzina, ma a sinistra il cerino. In mano a chi è rimasto? In mano a Renzi, che infatti non ha fatto mostra del suo musetto a commento dei risultati, anche perché, diciamocelo, non è che può far passare. Mettiamo il caso, uno gli dice: Matteo, commenta Lampedusa, che deve dire? Che Obama proprio è uno iettatore, già gli ha fatto. Ma Obama davvero adesso iettatore è una cosa bruttissima che non bisogna mai dire, però fortuna non porta. No. Vabbè, qui, tutti quelli che ha benedetto è andato a male. Bisogna analizzare il fascino. Gli aveva detto aveva bello bisogno. Questo referendum, tiè. Poi anche in Inghilterra la Brexit, tutto. Morale, è sempre il vecchio Berlusconi a vincere. Allora, diciamocelo, è inutile andare a cercare il nuovo Macron in Italia. Forse a Palermo. Forse a Palermo, magari in Sicilia c'è. Ed è Leo Luca Orlando, infatti vincendo, ha schifiato il PD e si è autoproclamato Macron di Via Macheda, del Cassero, di Ballarò, di Via Principe, di Belmonte, di Villabate, Mesilmere, Monreale, Partenico e Riva Grande, perché insomma solo il vecchio è nuovo. E storna. Vince uno solo, è già estate e c'ha l'arma pronta. Il muro è lippo lippo, ma lui vince col calippo. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Buonasera. Molti fatti interni e internazionali caratterizzano la giornata di oggi. La crisi di governo che vede il segretario repubblicano Spadolini impegnato nel tentativo di formare un nuovo governo. Tesa la situazione in Polonia ed altrettanto in Israele dopo il raid sulla centrale nucleare in Iraq. Ma c'è un fatto drammatico che tiene da 24 ore tutti con il fiato sospeso. La sorte del bambino di 6 anni. Ed è ieri sera prigioniero in un pozzo. Quanto manca per raggiungere il piccolo Alfredo? Ora sento tutte queste voci, tutta questa gente già capito che ho sbagliato, sono scivolato, sono caduto dentro il buco. È il 10 giugno del 1981, quando l'Italia intera si ferma davanti alle immagini che provengono da Virmicino, paese vicino Roma, dove un bambino di 6 anni, Alfredo Rampi, è caduto in un pozzo artesiano. La polizia arriva sul posto in serata e localizza il bambino. Poi arrivano i vigili del fuoco. Il pozzo è profondo 80 metri. Alfredino scivolerà fino a 60. Scivolo nel fango gelido, il cielo un punto non lo vede. Forze dell'ordine, volontari, nani, contorsionisti e speleologi si faranno avanti per partecipare all'impresa di aiutare il bambino. Ma il tentativo ufficiale dei vigili del fuoco sarà quello di scavare un pozzo parallelo con una trivella. Un tentativo che si rivelerà vano. Il 13 giugno, dopo 18 ore consecutive di diretta trasmessa a reti unificate, il TG1 annuncerà la morte del bambino. Ricordo bene, ho paura, sei nei cieli. Al caso di Alfredino Rampi, 36 anni dopo, dedichiamo la puntata dei Gialli della Storia, dopo il giornale radio, un caso che ha per la prima volta tracciato in modo originale e significativo il rapporto tra i media e la politica. Mario, c'è ancora un'ultima bolla? Sì, c'è un comunicato sulle banche venete, il cui destino è sospeso, certo, come sapete, si sta aspettando l'Europa, però evidentemente la situazione è abbastanza, come dire, sensibile e delicata, perché dal Ministero dell'Economia il ministro Padoan ha dato un comunicato dove sostanzialmente ribadisce che non ci sarà una soluzione che avrà alcuna forma di bail-in e che gli obbligazionisti senior e i depositanti saranno in ogni caso pienamente garantiti. Evidentemente c'è anche molta preoccupazione da parte ovviamente dei clienti delle banche. In questi casi questi comunicati servono anche a calmare il mercato, visto che è arrivato stamattina presto al mercato aperto. Vabbè, quindi questo significa che questo bail-in fa sempre dei passi indietro più veloci. Non lo so. Ma insomma, cioè, non lo so, che tu sei un sostenitore a spada tratta del bail-in. Io sono un sostenitore che i contribuenti non devono pagare i danni. Mi ricordo discussioni molto accese. Ma io lo ribadisco. Il contribuente deve decidere se pagare gli errori altrui. È vero che chi si loda si imbroda, questo me lo diceva sempre mia nonna. Però qui diciamo, come si fa a tacere di fronte a una vox populi così forte? Ci abbiamo. La più interessante, vi chiudono perché siete troppo filorussi. Questa, questa mi piace abbastanza. Qualcuno propone delle manifestazioni pro noi, contro altri. Qualcun altro dice: ma Barisoni che decide così, intelligente e lungimirante. Vabbè, insomma, comunque, così vanno le cose. Per chiudere, Gloria Guerrera, che cosa ha scelto per noi oggi? Oggi una canzone per chi coltiva i ricordi dell'infanzia assolata e degli amori febbrili. Franco Battiato, Scianizza d'amori. Mamma no capasso mionna, sta frevi mi già sin dall'ossa, u tutto ca fora c'ha guerra, mi sento scianizza d'amori. L'amori e quando t'angongio d'asciata mi veni nascossando cori, cu tutto ca fora si mori in amori, scianizza d'amori, l'amori. Scossando cori, cu tutto ca fora se mori, n'amori, scianizza d'amori, l'amori, mamma no capasso ionna, sta frevi già sin dall'ossa, cu tutto ca fora c'ha guerra, mi sento scianizza d'amori, l'amori.